Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torneremo sul tema del petrolio. Alcuni mi hanno scritto, ma il fatto che il prezzo sia negativo cosa vuol dire? Che vado alla pompa di benzina e mi danno i soldi per fare il pieno? No, non è così. E il negativo è il prezzo sul future, il petrolio si muove sempre con acquisti e con contratti sostanzialmente, che impegna a acquistare entro un certo termine un certo volume di petrolio a un prezzo prefissato. Questo è il future, cioè io scommetto quale sarà il prezzo fra alcuni mesi. Allora, è il future che è sceso sotto zero, cioè ha perso $50 e quindi è arrivato a meno $37.6. Questo per il mese di maggio. Qual è il motivo? Chiaramente c'è un crollo della domanda, meno 30 milioni di barili al giorno, a cui non è seguito una riduzione della produzione, anche perché in molti casi, penso ai piccoli produttori americani dello shale oil, bloccare la produzione vuol dire andare in bancarotta per gli investimenti già fatti, non sono solo i grandi produttori di petrolio. E ne parleremo per quello che riguarda sia il fronte finanziario, anche perché c'è un tema molto delicato. Il petrolio assieme all'oro viene utilizzato in molte transazioni di prodotti derivati, quindi carta su carta, come collaterale, cioè come garanzia collaterale. Se crolla il prezzo del petrolio, o anche se fosse quello dell'oro, è chiaro che mette in difficoltà tutte quelle operazioni derivate che hanno come collaterale il prezzo del petrolio. È un po' tecnico, ma è per far capire che non riguarda solo il consumo diretto di petrolio, dei suoi derivati, quindi gasolio e benzina. Certo che questo porterà a un rallentamento ulteriore dell'inflazione, perché sappiamo per esempio che in Italia esiste una quota importante di quella che si chiama inflazione importata, cioè che deriva non da un aumento dei prezzi perché si consuma di più e quindi c'è tensione sui prezzi, ma perché semplicemente noi importiamo la stragrande maggioranza delle commodity energetiche e quindi può esservi un aumento dei prezzi perché aumenta il prezzo del petrolio e quindi il prezzo del trasporto delle merci e quant'altro. Allo stesso modo, il fatto che il petrolio sia crollato come prezzo dovrebbe mantenere l'inflazione importata pari a zero, se non andando addirittura sotto. Di questo parleremo in apertura, però, anche del mondo bancario e degli italiani alle prese con i finanziamenti. Mi riferisco soprattutto a quelli da 25.000 euro, ci hanno scritto in tantissimi. C'è il Moloch della burocrazia, e qui lo sappiamo, non è che non vi fosse la burocrazia prima e la burocrazia la scopriamo col coronavirus. Purtroppo l'Italia è arrivata a questo cavolo di cigno nero con un insieme di problemi che si portava da prima, tra cui anche gli adempimenti burocratici, ma c'è anche, circola sulla rete soprattutto, l'idea che la banca trasformi o le banche vadano a trasformare debiti, o meglio crediti, che avevano nei tuoi confronti pregressi. Voglio dire, se io avevo ottenuto un prestito da 20.000 euro nei mesi passati, l'idea che la banca possa dire: bene, ottieni 25.000, poniamo, ma questi 25.000, 20.000 vanno a coprire e a ripianare il tuo debito precedente. Perché questo va discusso? Da un lato perché il debito precedente era un credito chirografario, e quindi fatto con il soggetto. In questo caso invece si tratta di un credito che la banca dà con la garanzia al 100% dello Stato, e quindi alcuni obiettano: non è corretto che tu trasformi con i soldi statali quello che era un rischio credito precedente in una garanzia totale. E poi perché a me, nel caso specifico, a quel punto arriverebbero solo 5.000 euro su 25.000 erogati, se 20.000 vanno a coprire il mio debito precedente. E di questo parleremo, sia le lungaggini burocratiche che erogazioni vere e proprie. E poi mi sembra ancora molto presto sia ragionare sulla fase 2, il governo sta lavorando, sia sul MES. Sì, oggi certo che lo spread si è mosso, purtroppo è arrivato a 260 punti, e ascolteremo alcune dichiarazioni anche del Presidente del Consiglio nell'informativa al Senato. Non, ci sono tantissime ipotesi, c'è chi dice si arriverà a un recovery fund, ma verrà attivato con ritardo perché non sarà extra budget. Vedremo, mi sembra che le posizioni siano ancora molto nebulose, quindi è inutile fare speculazioni da questo punto di vista. Il 23 manca poco, insomma, mancano sostanzialmente 3 giorni, quindi il 23 lo sapremo con il Consiglio europeo. Dunque, qualcuno mi scrive, non mi sono ancora arrivati i 600 euro all'INPS. In realtà a me stanno scrivendo poi, non che io rappresenti un osservatorio, non che Focus Economia rappresenti un osservatorio così scientifico, però a me risulta che molti hanno ricevuto i 600 euro. Però immagino che, insomma, da questo punto di vista non si è arrivato a tutti. I dati dell'INPS di ieri erano abbastanza positivi sul numero di pratiche che poi sono state portate a casa nei 600 euro. Comunque, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Sì, mi sta chiedendo qualcuno, portano a casa gli incagli, me lo hanno già proposto. Va bene, adesso ne parleremo tra un attimo, proprio con chi rappresenta il mondo bancario, è una delle principali banche di questo paese. I mercati finanziari, visto che stiamo parlando anche di spread, oggi sono di nuovo negativi e non da poco. Devo dire, Milano, per quello che può servire, non è la peggiore, -2,90, peggio fa Francoforte, -3,60, Parigi, -3,40, Londra, fuori dall'area euro e fra poco anche dall'Europa, -2%, Dow Jones -2,45%. Tra i titoli segnalo che vanno male soprattutto i titoli legati al petrolio, ma non ci vuole un genio a capirlo: Eni -5, Saipem -5%, Tenaris -4,5. Male anche il gruppo Fiat con Exor, la controllante -4,28, Fiat Chrysler -3,90%. E poi un insieme di titoli tra finanziari e industriali: Finecobank -6, ST Microelectronics -6, Ferragamo -5,60, Leonardo -4,90, e ancora Biperbank -3,80 come banca mediolanum, il 3,5 lo perde Moncler e Unicredit. Mi fermo con chi perde più del 3%: Banca Generali Buzzunice -3,20, Era -3 come Mediobanca e Amplifon. Andiamo con le altre notizie in breve. Allora, alcuni mi stanno scrivendo, attenzione, se non sono in grado di verificarlo, che se qualcuno non ha ancora ricevuto i 600 euro, è perché ci sono molte richieste fatte in maniera sbagliata. 250.000 richieste secondo l'INPS sono fatte in maniera sbagliata. Altri mi dicono ci sono molti che hanno, eccolo qua, molti hanno chiesto 600 euro pur non avendo diritto. Guardate, questo non lo possiamo verificare. Abbiamo visto molte parti IVA, anche molti avvocati e commercialisti chiedere i 600 euro. Però andiamo avanti. Per quello che riguarda le notizie di carattere generale, di carattere internazionale, il dato sulle vendite di case esistenti negli Stati Uniti è peggiore delle attese, -8,5% a marzo. Mentre per quello che riguarda le trattative europee, slitta la comunicazione della Commissione europea sul Recovery Fund, che cos'è? È la proposta francese per andare oltre gli euro bond o i corona bond, e cioè avere un fondo europeo. Quanto ammonterà questo fondo? Insomma, si dice dai 500 ai 1500 miliardi, quindi anche qui c'è molta incertezza. Però è slittato la prossima settimana l'esame e il varo di una comunicazione sul Recovery Fund da parte della Commissione europea, il che non vuol dire che non se ne parlerà fra 3 giorni, appunto, nel Consiglio europeo. Il Presidente del Consiglio Conte, nella sua informativa al Senato, ha detto sull'ormai strafamoso MES si è alimentato nelle ultime settimane un dibattito che rischia di dividere l'Italia in opposte tifoserie, però qui occorre procedere con la massima cautela. Sul terzo elemento del pacchetto, ovvero l'attivazione di una linea di credito dedicata alle spese sanitarie ed erogata dal meccanismo europeo di stabilità, l'ormai strafamoso MES, si è alimentato nelle ultime settimane un dibattito che rischia di dividere l'Italia in opposte tifoserie. L'Europa non deve ritrovarsi nuovamente a chiedere scusa nei confronti di nessun paese, come è successo in passato, quando ha imposto alla Grecia programmi particolarmente severi. Di qui la mia posizione di assoluta cautela. Di fronte alla sfida epocale che abbiamo di fronte, non si può pensare che la risposta possa essere affidata a interventi modesti, peraltro sul piano finanziario, per di più basati su un accordo intergovernativo come il MES, pensato per gestire crisi assai diverse, riguardanti singoli paesi, imputabili a squilibri di natura economica. E poi Conte ha detto, vabbè, sull'attivazione del MES, parliamo del MES sanitario, quello su cui sta ancora cercando di capire se veramente sarà senza condizionalità. L'ultima parola spetta al Parlamento. Il veto al MES farebbe torto ai paesi interessati, però sul Recovery Fund va attivato subito, anche se dovesse essere legato al bilancio dell'Unione Europea. Il tema qual è? Che se è extra bilancio lo puoi attivare subito, se un aumento del budget dell'Unione Europea deve avere il voto dei 27 paesi e quindi ci vorranno dei mesi. Conte dice anche se dovesse essere legato al bilancio, attivatelo subito. L'Italia, insieme agli altri paesi che condividono questa medesima strategia, sostiene la necessità di una risposta coordinata, ambiziosa allo shock da Covid-19, con la conseguenza che questo nuovo strumento di finanziamento dovrà essere conforme ai trattati europei, perché non abbiamo il tempo di operare modifiche che comporterebbero una lunga, complessa procedura. Gestito a livello europeo, offerto a tutti i paesi interessati, senza che possa assumere un carattere bilaterale, dovrà essere particolarmente consistente quanto alla dimensione finanziaria, ben più consistente degli strumenti di cui attualmente si parla, dovrà essere mirato a far fronte a tutte le conseguenze negative economiche e sociali prodotte dal Covid-19, dovrà essere immediatamente disponibile e seppure verrà a ricadere sul nuovo quadro finanziario pluriennale, dovrà essere messo a disposizione di tutti i paesi interessati subito, attraverso un meccanismo di garanzie che ne anticipino l'applicazione, il cosiddetto bridge. E quindi appunto anche dovesse far parte di un bilancio europeo aumentato, che parta subito il meccanismo del bridge, è un po' tecnico da spiegare. Dunque vedo moltissimi messaggi ancora sui 600 euro ai notai, agli avvocati e ai commercialisti. Però qui devo dire una cosa, il decreto legge prevede che i 600 euro possono essere dati a chi ha un reddito inferiore ai 35.000 euro o anche a chi ha un reddito inferiore ai 50.000 euro, purché denunci un calo del fatturato nei mesi scorsi, nelle settimane precedenti, del 30%. Ora mi state scrivendo, è uno schifo, anche persone che abitano che lavorano in banca, vedo persone che hanno più di 100.000 euro sul conto corrente chiedere i 600 euro. Evidentemente dichiarano meno di 35.000 euro lordi o meno di 50.000 euro con la situazione che però ho descritto sul calo del fatturato. Se poi qualcuno mi vuole dire che in questo paese esiste l'evasione fiscale, ci sono professionisti che dichiarano, ragazzi, pubblichiamo ogni anno le classifiche della dichiarazione dei redditi in base alle categorie, non ci stupiamo di questo, però attenzione, perché io immagino che poi uno debba anche dover dimostrare un domani, adesso non c'è, diciamo, un'attività dell'Agenzia delle Entrate, però però ti stai esponendo perché evidentemente hai dichiarato all'INPS che tu guadagni meno di 50.000 euro in quella formula o meno di 35.000 in assoluto, e poi si possono anche incrociare i dati. Dopodiché attenzione ai luoghi comuni, non sto parlando dei notai, grandi notai o grandi avvocati, grandi commercialisti, ci sono molti avvocati e commercialisti che vengono tenuti come finte partite IVA perché in realtà sono assunti, sono diciamo a tutti gli effetti quasi a tempo pieno, e che non guadagnano delle grandissime cifre e quindi possono sicuramente avere bisogno dei 600 euro. Andiamo avanti, prima di passare adesso al mondo bancario, ancora due o tre notizie che riguardano l'Italia. Allora, per quello che riguarda il calo del PIL, oggi anche l'Ufficio parlamentare del bilancio segnala un calo mai visto nei primi sei mesi, meno 15% il crollo del PIL italiano. La cassa integrazione è esplosa, è il triplo sostanzialmente per la sola parte relativa alle richieste di cassa integrazione. Il numero possa essere ampiamente superiore, anche tre volte tanto rispetto ai valori massimi storicamente osservati, e cioè quelli della crisi finanziaria del 2009. E poi per quello che riguarda la fase 2, Conte ha detto entro la settimana arriverà il piano per l'apertura dal 4 maggio in poi, e su questo vorrei far ascoltare quella che è la posizione del mondo dei negozi, perché ieri il sindaco di Milano Sala ha ipotizzato orari scaglionati con aperture anche serali, e il presidente di Federmoda Renato Borghi ha accolto queste proposte con riserva, come ha chiarito al microfono della nostra Maria Luisa Pezzani. La variazione degli orari ci trova d'accordo. Se parliamo di orari serali, però, naturalmente esprimiamo molte riserve, sia perché dal punto di vista del conto economico costa molto, costa di più ovviamente tenere aperto la sera, sia per un motivo di sicurezza nei confronti dei nostri collaboratori, o meglio ancora delle nostre collaboratrici, perché molti dei dipendenti dei negozi di moda sono donne. Su quale scenario il settore si avvicina alle riaperture? Guardi, va fatta una premessa che il settore, come tutti sanno, soffriva già di una debolezza della domanda, quindi di una crisi di consumi. Pensi che nel 2019, quindi l'anno scorso, comunque c'è stato un saldo negativo di 3.500 negozi. A fronte di 115.000 punti vendita che ci sono in Italia, noi purtroppo stimiamo, e forse è una stima prudenziale, che un 10% sia costretto ad arrendersi a questa crisi, con il rischio di una perdita di occupazioni di circa 30.000 persone. Noi abbiamo contratto 8 mesi prima della stagione, quindi ci troviamo adesso con della merce ancora in celofanata in negozio, no? Che dobbiamo pagare e non abbiamo venduto, e abbiamo già confermato gli ordini per l'autunno-inverno e quindi abbiamo delle obbligazioni nei confronti dei fornitori. Per quello chiediamo di essere tra le attività che possano riaprire per primi. Siamo dentro una tempesta perfetta, e non ci sono state lanciate le ciambelle di salvataggio. I famosi 400 miliardi in realtà sono un prestito e quindi un debito, non è una risposta. La risposta può essere solo erogazione di contributi a fondo perduto, e se questo non fosse possibile, perlomeno diciamo dei contributi la cui restituzione sia prevista in 10 o 20 anni. Le moratorie fiscali e contributive devono andare avanti almeno fino al 30 di settembre. Chiediamo anche una sorta di svalutazione del magazzino, crediti d'imposta per la merce che abbiamo comprato e stiamo pagando pari al 60% del loro valore. Siamo quindi un pochino delusi e anche un po' arrabbiati. In chi rappresenta i negozi di moda c'è più di una proposta. Il fondo perduto, io continuo a dirlo, a mio avviso ancora di più per il turismo, per quei settori che non potranno recuperare le perdite fatte in questi mesi, e poi appunto alcune moratorie o prestiti, come diceva Borghi, se non a fondo perduto almeno da restituire in un tempo molto lungo, dai 10 ai 15 anni, in modo che uno abbia fra due anni l'angoscia di restituire il prestito, un po' come avviene per i 25.000 euro. Allora, molti mi continuano a scrivere sui 600 euro. Adesso arriviamo a parlare dei prestiti bancari. Guardate, ribadisco, tu potevi averli, li puoi avere se hai fatturi meno di 35.000 euro, se, oppure se hai avuto un calo nel primo trimestre del 33% del tuo fatturato, fino a 50.000 euro. Ora è chiaro che ti esponi, lo dico se tu sei un evasore, al fatto che devi dichiararla sta cosa all'INPS: ho avuto un calo del 33% del mio fatturato. E poi io non escludo che possano essere fatte le verifiche, però una cosa la voglio dire: mi rendo conto che sono arrivati tardi, Tridico finalmente ha chiesto scusa per il casino combinato il primo giorno di erogazione, il presidente dell'INPS, e che l'Italia non è mai stata la Svezia o la Germania dal punto di vista burocratico. Però possiamo anche dire una cosa, che è la prima volta che io ricordo in memoria d'uomo che lo Stato dà dei soldi ai cittadini, non a tutti, stiamo parlando di partita IVA e autonomi, cioè che ti fa arrivare sul conto corrente, e a molti sono già arrivati 600, non saranno tanti, mi rendo conto, però è la prima volta, così come la cassa integrazione in deroga è la prima volta che si applica anche a chi è un solo dipendente. Ogni tanto cerchiamo di vedere anche gli strumenti che sono del tutto provvisori in questo periodo in cui non puoi uscire, è chiaro che non spendi. Poi bisognerà intervenire sulle singole categorie, perché ripeto, come gli amori infelici di Tolstoi, ogni infelicità qua è diversa: è diverso il settore turismo, bar, ristorazione, spettacoli, dal settore manifatturiero, dal settore dei servizi. Ogni caso va preso a sé. Allora, oggi, prima di arrivare al tema delle banche, vorrei parlare della Cina. Ecco, anche uno maschio dovrebbe darci la Cina. No, no, ma non è. Guardate, nei giorni scorsi abbiamo visto le dichiarazioni di Macron molto dure sul Financial Times, non è ancora chiaro quello che è successo in Cina. Il ministro degli esteri Rab britannico, anche lui ha detto bisogna capire cosa è successo in Cina. Al di là di Trump che l'ha detto e ridetto, lo chiama il virus cinese, io trovo veramente un atteggiamento quasi di protervia e comunque di arroganza quello che è noto dalla Cina. Al di là dell'intervista che ho ricordato la settimana scorsa, se non ricordo male, all'ambasciatore cinese, era uscita su Repubblica, in cui l'ambasciatore cinese diceva ma non è, l'origine del virus non è ancora chiara. Ma come non è ancora chiara? Allora diteci voi com'è nato sta roba. Però qui il problema non è la colpa della Cina se è stato un contagio per il tipo di abitudini alimentari, wet markets e non solo, o addirittura, come ipotizzano alcuni, so che i servizi stanno indagando se il laboratorio Wuhan abbia commesso un errore. Ma diciamo anche che è stato un errore, che è stata una cosa non voluta. Certo che a questo punto devi sistemare questi wet market se sono elemento che, diciamo così, in maniera così forte rischia di trasmettere un contagio. Quello di cui si accusa la Cina in questo momento è di non aver dato le informazioni corrette sulla espansione e mortalità di questo virus, soprattutto sulle fasce dai 70 anni in su. Perché i numeri che arrivano dalla Cina, al di là di quel ritocchino chirurgico che hanno fatto ai decessi a Wuhan, sono ancora ridicoli: 4.600 persone in tutta la Cina, 80.000 contagiati, se solo la regione di Hubei sono 60 milioni di abitanti come l'Italia o come la Francia, guardate i numeri francesi, italiani, spagnoli, britannici e dite se si può credere a quei numeri. Ma anche l'atteggiamento un po', sempre un po' piccato, si è fatto notare, la Francia l'ha fatto notare molto bene: grazie per le mascherine e i respiratori, ma noi abbiamo mandato 50 milioni di euro a gennaio, tra gennaio e febbraio, alla Cina di materiale sanitario, mentre la Cina faceva anche incetta. Noto un silenzio di un unico paese tra quelli grandi nei confronti della Cina, che è l'Italia. Allora, sentiamo cosa ha detto oggi il vicepresidente del COPASIR, Adolfo Urso, quindi il Comitato dei Servizi, ospite di Maria Latella e Simone Spezia 24 mattino. E poi vi vorrei anche leggere, per chi se la fosse persa, la risposta. Sapete che io critico spesso la Germania, ma in questo caso è da applauso la risposta che ha dato il direttore della Bild all'ambasciatore cinese a Berlino, che è una risposta oggettivamente che andrebbe sottoscritta. Sentiamo intanto Urso che dice: beh, vorremmo convocare il ministro Di Maio. Io non ho ancora ascoltato una posizione del ministro Di Maio sulla Cina. Non vorrei che i rapporti a suo tempo ottimi tra i 5 Stelle e la Cina, quando ci fu la Via della Seta e il Belt, non so, forse magari influenzassero, non lo so, immagino di no. Però vorrei capire cosa ne pensa il governo italiano, visto che stanno parlando tutti, sulla, anche Angela Merkel, che ha rapporti intensissimi con la Cina e la Germania, il primo paese nell'interscambio con la Cina in Europa. Anche lei ha avuto parole molto caustiche nei confronti dell'atteggiamento del governo cinese. Nessuno sta dando la colpa in senso stretto, però poi la gestione è un'altra cosa. Non puoi mettere la polvere sotto il tappeto e dire abbiamo contenuto tutto, non succede niente, poi quando arriva qua fa un massacro. Comunque, Urso su Di Maio e Cina. Ieri persino la Merkel ha chiesto spiegazioni al governo cinese su come sia nato questo virus e su perché sia stato dato tardiva allarme al mondo. Lo avevano fatto prima Trump, Macron, il premier australiano. L'Italia, che è la principale vittima, non mi sembra strano che non abbia chiesto a sua volta chiarimenti ufficiali al governo cinese. E questo ovviamente può significare che non si vuole disturbare il manovratore, magari perché esso è oggi fin troppo influente nel nostro paese. Ma Di Maio già doveva venire al nostro comitato, perché al nuovo incarico di ministro degli esteri era stato convocato, poi la convocazione è stata rinviata di giorno in giorno. Io credo che sia necessario, domani ne parlerò esplicitamente nella riunione del comitato presieduto da Volpi, per chiedere appunto di accertare come sia accaduto tutto ciò e perché il nostro governo, a differenza di altri, non agisce per avere chiarezza. E poi, visto che il vicepresidente del COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, il COPASIR ha lanciato l'allarme sul rischio scalata dei gruppi italiani da parte di stranieri e non solo europei, anzi, viste le difficoltà in questo momento delle nostre imprese. Non si tratta soltanto di attori stranieri fuori dall'Unione Europea, non è soltanto la Cina o i fondi sovrani asiatici o islamici, perché nel recente provvedimento del governo, che personalmente ho sollecitato ripetutamente con dichiarazione e con me l'intero COPASIR, si prevede in via emergenziale che la Golden Power, oltre che essere estesa ai settori bancari e assicurativi come avevamo chiesto e alla filiera alimentare e sanitaria, riguarda quindi anche soggetti dell'Unione Europea che possono approfittare della debolezza delle imprese italiane per appropriarsene. E perché questo va detto e sottolineato? Perché, come emerge dalle relazioni pubbliche, ancorché non siano citati i paesi, è evidente a tutti che già alcuni paesi e le loro aziende hanno approfittato della recessione derivante del 2008, che ha colpito l'Italia più di altri paesi europei, per appropriarsi di settori strategici nel nostro paese. Perfino la Commissione europea, nel dare le direttive, le linee guida delle direttive sugli investimenti esteri, ha consigliato gli Stati dell'Unione europea di elevare gli scudi, anche lo scudo, cioè della Golden Power, anche nei confronti di aziende intraeuropee. Allora, qualcuno mi scrive: per me è un ridicolo complottismo anticinese, cosa sarebbe cambiato? Bah, insomma, non sono mica tanto d'accordo. A me lascia molto perplesso il fatto che la Cina continui ad avere, a fare questa politica così di in qualche modo amichevole, perché ti manda i respiratori e le mascherine, ma non ha ancora chiarito i numeri reali e che cosa è successo. Ha rifiutato qualunque ispezione per capire se il virus sia nato veramente da questi mercati, allora richiudeteli subito. Oppure se sia nato un errore di laboratorio, cioè non dà la possibilità di guardare. E tra l'altro non è vero che se non avesse avvisato dicendo: guardate, il tasso di mortalità quando è arrivato il virus veniva raccontato che era al 3%, perché si guardavano i morti cinesi e lì era al 3%. Sappiamo tutti che il tasso di mortalità sopra i 70 anni è al 18-20%, e comunque Francia, Spagna e Italia ce l'hanno in questo momento tra l'11 e il 13% rispetto ai contagiati. Di che cosa stiamo parlando? Dai, per favore. E non dimentichiamoci l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che a metà gennaio dice ancora non ci sono dimostrazioni che si possa passare da uomo a uomo. La Cina ha fatto tutto quello che era, e le proteste quando abbiamo chiuso i voli dalla Cina. Questo è, fanno, comunque sentite, poi vado alle banche. La risposta che ha dato il direttore della Bild, popolarissimo quotidiano tedesco, al presidente cinese Xi Jinping. Perché? Perché Xi Jinping, non contento della figura che sta facendo la Cina, ha chiesto tramite una lettera all'ambasciata che la Bild porgesse le sue scuse per il trattamento riservato dal giornale tedesco al governo cinese. Reichelt non solo non ha dato le scuse, ma ha detto... mi consente di rispondere in 5 punti, ve li leggo perché è un mito sta lettera. Allora, prima di tutto, lei governa con la sorveglianza e il controllo, lei non sarebbe presidente senza la sorveglianza, ha fatto chiudere tutti i giornali e siti internet che si sono mostrati critici rispetto al suo operato, ma non le bancarelle dove vengono vendute le zuppe al pipistrello. Lei non controlla solo i suoi cittadini, ma li mette in pericolo e con loro il resto del mondo. Punto 2. La sorveglianza è una violazione della libertà, e una nazione che non è libera non può essere creativa, è una nazione che non è innovativa, non inventa nulla. Ecco perché ha trasformato la Cina nel più grande esperto di furto di proprietà intellettuale. La Cina si arricchisce con le invenzioni degli altri invece che con le sue invenzioni. La ragione per cui in Cina non si inventa e non si innova è perché non permette ai giovani del vostro paese di pensare liberamente. La cosa più grande che avete esportato, e che comunque nessuno voleva, è il coronavirus. Hai capito? Terzo punto. Lei, il suo governo e i vostri scienziati sapevate da tempo che il coronavirus fosse altamente infettivo, ma avete lasciato il resto del mondo all'oscuro. I suoi esperti non hanno saputo rispondere quando i ricercatori occidentali chiedevano che cosa stesse accadendo a Wuhan. Era troppo orgoglioso e nazionalista per ammettere la verità. Pensava si trattasse di una disgrazia nazionale e invece si è trattato di un disastro globale. Io, conoscendo un po' i cinesi, penso che questo passaggio sia fondamentale. Per orgoglio e nazionalismo non ha voluto dirci qual era la situazione. Quarto punto del direttore della Bild. Il Washington Post riporta che i vostri laboratori a Wuhan hanno fatto ricerche sui coronavirus nei pipistrelli, ma senza mantenere i livelli di sicurezza elevati che sarebbero necessari. Perché i vostri laboratori tossici non sono così sicuri quanto invece lo sono le vostre carceri per i prigionieri politici? Potrebbe spiegarlo le vedove in lutto alle figlie, ai figli, mariti e genitori delle vittime di coronavirus in tutto il mondo? Quinto, e conclude, nel suo paese il popolo la sta mettendo in discussione, il suo potere sta crollando. Ha creato una Cina impenetrabile e non trasparente. Prima del Covid la Cina era conosciuta come uno stato sorvegliante, ora è uno stato sorvegliante che ha infettato il mondo con una malattia mortale. Questa è la sua eredità politica. La sua ambasciata dice che non sono all'altezza della tradizionale amicizia fra i nostri popoli. Immagino che considera una grande amicizia quella in cui manda mascherine in giro per il mondo. Questa non è amicizia, la chiamerei imperialismo nascosto dietro un sorriso, un cavallo di Troia. Pianifica di rafforzare la Cina grazie ad una malattia che ha esportato. Non ci riuscirà. Il coronavirus prima o poi sarà la sua fine politica. Oh. Forse a Xi Jinping non gli conveniva chiedere all'ambasciatore le scuse del direttore della Bild. Io devo dire che su questo uno la pensa come vuole, ma non so come si dica palla in tedesco, ma il direttore della Bild le ha. Meteo, pubblicità e poi le banche italiane. Focus Economia. Allora, parliamo del credito bancario. Vedo moltissimi messaggi al 349-238-6666 della risposta è il direttore, non è un ministro tedesco, è il direttore della Bild. Qualcuno mi dice che bisognerebbe fare caso. Sì, alcuni imprenditori americani vorrebbero fare una class action alla Cina per danni, ma ripeto, qui il problema era la trasparenza nella comunicazione. Qualcuno mi dice i nostri nemici sono i tedeschi. Guardate, e gli olandesi. Allora, sapete tutte le critiche che ho mosso agli olandesi e ai tedeschi in questi. Però attenzione qua, l'Europa, noi abbiamo bisogno di più Europa, ecco perché si fa una battaglia per un MES senza condizionalità e per un fondo recovery, chiamatelo come volete, europeo. Quindi non possiamo andare lì come nemici, dobbiamo portarli sulle nostre posizioni. E poi, visto che me la tirate fuori, vedo, è tornato Dibba, grande notizia. Vabbè, ma vera, si scaglia subito contro, ma perché non attacca la Cina? Perché il ministro Di Maio non si allinea con quello che stanno facendo i suoi omologhi francesi, inglesi e anche tedeschi e dice scusatemi, ci aspettiamo qualche spiegazione in più dalla Cina? Di cosa ha paura il Movimento 5 Stelle? Dibba, si occupi di Cina, lei che è spesso in giro, no? si occupi di Cina e ci racconti un po' com'è la situazione cinese, altro che il MES. Adesso vedo che Centeno ha appena detto, presidente dell'Eurogruppo, che il MES, dentro il MES non c'è nessuna condizionalità. Andremo a vedere i dettagli di questo MES senza fare una battaglia ideologica. MES, ILVA, TAV, là dove c'è un acronimo si scagliano. Do un altro acronimo per i 5 Stelle, CINA. Allora, cambiamo tema, o meglio, restiamo sul coronavirus, cronache del coronavirus. Allora, ieri sono arrivate migliaia di domande alle banche italiane per erogare prestiti garantiti alle piccole e medie imprese. Si discute soprattutto della fascia dei 25.000 euro. Abbiamo spiegato molte volte che il resto invece ha una parte di garanzie, perché fino a 25.000 euro lo Stato garantisce al 100%, fino a 800.000 euro c'è il 90% dello Stato, il 10% dei Confidi, e fino a 5 milioni di euro 90% dello Stato, però possono intervenire i Confidi. Sopra invece 500 dipendenti si va alla SACE. Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, buonasera. Sì, buonasera a voi. Allora Barrese, le dico la prima obiezione che ci arriva, grazie per aver atteso, ma avevo un po' di coda nel programma. Ci dicono che le banche stanno proponendo a me, poniamo che io venga da voi, da Banca Intesa, e abbia già una linea da 20.000 euro di credito con voi, però chirografaro, cioè fatto a me mesi fa, che le banche dicono: ti trasformo, ti do i 25.000 euro a garanzia dello Stato, ma ti trasformo e sostanzialmente servono per estinguere il tuo debito precedente, i 20.000, e quindi a me ne resterebbero solo 5.000, con l'aggiunta che in questo caso la banca utilizzerebbe una garanzia dello Stato per risolvere un credito che invece va preso in maniera chirografara con me. No, allora, diciamo che la banca non fa questo, quindi la banca fa tendenzialmente quello che il cliente gli richiede, no? Quindi partirei da questo, per cui in questo momento i clienti stanno chiedendo in misura significativa, direi in massa, l'accesso a questa forma di erogazione creditizia con garanzia associata al 100%. Quindi il cliente sicuramente la richiede, e per esperienza personale quello che sto vedendo la stanno chiedendo clienti, quindi in questo caso partite IVA, professionisti, piccolissime imprese, che in questo momento non hanno la liquidità, per cui parliamo di aziende che sul conto, per usare un termine che tutti conoscono, sono in negativo. Per cui è liquidità che arriva sul conto, gli consente di riportarlo in positivo e di utilizzare questa liquidità per vivere o per pagare gli stipendi dei collaboratori, per poter pagare i fornitori, visto che una serie di aziende, e ce l'auguriamo il prima possibile, riprendono molto probabilmente a maggio. Quindi secondo me sgomberei subito il campo da questa cosa. Quindi il cliente chiede la liquidità perché è funzionale alla sua attività d'azienda. Poi nell'ambito della legge è previsto che si possa il cliente chiedere una rinegoziazione di una linea in essere, e banca può fare questo naturalmente avendo accesso alla garanzia, ma erogando in misura maggiore di almeno il 10%. Quindi non è la banca, quindi, è una previsione nel contenuto normativo. Quindi Barrese, se ho ben capito, se io vengo da voi e ho bisogno di 25.000 euro, fino a un massimo di 25.000 euro, no? Perché deve essere, deve essere al massimo, deve essere non superiore al 25% dei miei ricavi. Quindi vuol dire che io ricavo 100.000 euro all'anno e vengo a chiedervene massimo 25.000, giusto? Assolutamente. A quel punto voi me li dovete dare, tra virgolette. Se poi invece io vi dico: scusi Barrese, però questi soldi vorrei che andassero a ripianare il debito che avevo contratto con voi, poniamo, da 20.000 euro, voi me lo potete fare, ma dovete comunque erogarmi fino al 10% in più di quello che era il mio vecchio debito, capito bene? No, può anche chiedere a questo punto una linea aggiuntiva e incrementale rispetto a una linea già in essere, ma questo deve avvenire se naturalmente si vuole utilizzare il Fondo Centrale di Garanzia, perché qui stiamo parlando della possibilità di accedere alla garanzia dello Stato. Poi c'è tutta la possibilità che l'azienda possa attingere al credito a prescindere dalla garanzia dello Stato. Si può accedere a garanzia dello Stato, in questo caso non è al 100%, ma è necessario erogare un 10%. Però quello è altro elemento, no, mi faccio aggiungere un punto, perché l'elemento importante è che Questo può avvenire, naturalmente, ma deve avvenire a condizioni che sono sicuramente migliorative rispetto a quelle precedenti. Quindi non può avvenire né a condizioni uguali e né a condizioni maggiori. Quindi comunque le condizioni che devono essere fatte sull'intera linea, quindi non sul differenziale, devono essere condizioni migliorative rispetto alle precedenti. Però qui lei sta parlando della parte che riguarda fino agli 800.000 euro, dove c'è il 90% di Stato e il 10% di Confidi. Perfetto, e devono essere migliorative. Qui vengo al secondo aspetto. Qui, giustamente qualcuno mi fa notare, beh, magari io potrei avere anche un interesse, se per esempio sono sotto col conto corrente di 10.000 euro, è chiaro che pago, sì, perché sono andato sotto per i fatti miei, non per colpa del coronavirus. È chiaro che a me può convenire anche ripianare quel debito, perché almeno un conto corrente in positivo non ci pago sopra, è ovvio. Però andiamo avanti, il tasso praticato, perché anche qui noi avevamo capito che la legge ponesse un tasso massimo praticato al prestito garantito dallo Stato. Corretto, corretto. La legge indica in modo chiaro l'algoritmo con il quale si può ricalcolare questo tasso massimo, e noi l'abbiamo ricalcolato e viene un intorno del 2%, quindi si aggiunge al rendistato, che è il tasso di rendimento dei titoli di Stato, un differenziale del CDS banche rispetto al CDS paese, più un 20 basis point, che è come se fosse una sorta di costo a aggiuntivo. Barrezza, per farmi capire, io che vengo da lei e ho appunto 100.000 euro di ricavi, e chiedo 25.000 euro, a quanto me le... Che tasso le faccio? Sì. Allora, io in questo momento le posso fare un tasso che è dello 0,04% se questi 25.000 euro mi li chiede a 3 anni, con 2 anni di preammortamento, oppure all'1,13% se mi richiede a 6 anni con 2 anni di preammortamento. Perché? Quindi significativamente inferiore rispetto al tasso massimo previsto nella legge, che abbiamo detto essere intorno al 2%. Intorno al 2%. Sì, perché si possono chiedere a 3 anni con 2 di ammortamento, oppure se il governo ha previsto che... Fino a sei anni, comunque i primi 2 anni non glieli devo restituire, giusto? No, aspetta per l'ammortamento, quindi per la restituzione del capitale, questo di fatto avviene dal terzo anno, per cui per 2 anni di fatto pago non ha l'elemento, che sono, come abbiamo detto, da un minimo dello 0%, quindi zero, ad un massimo, nel caso specifico per la banca nostra, dell'1,13%. Altra domanda che gliele giro, perché me ne stanno facendo molti, molti ascoltatori, dice, ma se io sono sotto di 10.000 euro nel conto corrente, di 15.000 euro e me ne erogano 25, vuol dire che me ne danno 10. Allora, se ho ben capito, voi dovete darmene 25 se ho bisogno di 25. Se invece io vi dico, per favore, di questi 25, 10 levameli dal... Assolutamente. È così. Cioè, io posso anche tenere i miei 15.000 euro di rosso da voi. Allora, in questo caso decide il cliente. Non è che lei tiene i soldi che non vengono erogati chiaramente, una liquidità che viene messa a disposizione sul conto. Lei li può anche tirare tutti e ritornare a questo punto almeno 15 che aveva prima. Certo. Cioè, in realtà, come può chiedere una liquidità aggiuntiva rispetto a questa, che la banca le dà a quel punto con una valutazione più, a questo punto, dettagliata, perché in questo momento la valutazione su questi 25.000 euro è funzionale ai requisiti previsti dalla legge, per cui di fatto sostanzialmente la verifica del fatturato e una serie di verifiche legate, in questo caso in particolare, le tematiche dell'antiriciclaggio, che sono fondamentali. Se si vuole accedere a ulteriore liquidità, come normalmente si fa con la banca, a quel punto la banca è chiaramente disponibile, andando a fare le sue valutazioni dal punto di vista economico-finanziario. Allora, Barrezzi, dopo il traffico, un'ultima domanda per lei che riguarda invece le procedure, perché anche qui so che delle volte la colpa non è vostra, ma abbiamo visto addirittura 19... passaggi burocratici anche per i 25.000 euro. Vorrei capire se è così, e questa è la domanda, è propedeutica, sapere quali sono i tempi di erogazione per i 25.000, almeno per quella parte lì. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com cinesi.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Focus Economia. Allora, ultima parte della prima ora di Focus Economia. Qualcuno mi scrive: ma siamo poi sicuri che paghino i fornitori o i 25.000 euro se li intascano? Ma guardi che non sono a fondo perduto, sono comunque un prestito. Farei quello che ti è più utile, pagherai i fornitori se il problema è pagare i fornitori. Temo che 25.000 siano un po' pochi per i fornitori. Oppure li userai per la liquidità corrente, per la liquidità di cassa, per pagare gli stipendi, dipende quello, oppure in altri casi ti serviranno per vivere, ma non sono a fondo perduto, quindi prima o poi li dovrai ridare questi soldi. No, Barrese, vorrei capire l'ultima cosa con lei sui passaggi burocratici. Il fatto che ci vogliono 19 documenti vale anche per la garanzia al 100%, dove non capisco perché i passaggi burocratici, o solo quando fino agli 800.000 euro, dai 25 a 800.000 euro, c'è bisogno dell'intervento dei Confidi, che devono garantire il 10% del totale, il 90% lo garantisce lo Stato. Prego. Allora, le dico questo: allora, dal punto di vista dell'accesso a questa iniziativa per i 25, il processo è estremamente facile, poi parlo per la nostra esperienza. Si va sul sito, si entra nell'area di riferimento per questa iniziativa sulla liquidità e si scaricano due moduli. Un modulo che è l'allegato previsto dalla legge, un altro modulo che è il contratto, perché questo è un contratto di finanziamento a tutti gli effetti. Si compilano, si firmano, si rimandano indietro su una casella di posta, da noi vengono acquisiti, abbiamo una task force centrale e lavorata, perché abbiamo anche predefinito quelle che potrebbero essere le liste per velocizzare naturalmente l'attività. Chiaramente questo stiamo parlando dei nostri clienti, e a quel punto teoricamente noi già ieri abbiamo iniziato a derogare, io direi che massimo 72 ore noi riusciamo a dare i soldi ai clienti. Poi le dico, stanno arrivando tantissime richieste. Ieri avevamo già lavorato 1.300 richieste effettive, 70.000 erano stati i moduli scaricati dal sito. Le dico che nella giornata di oggi i moduli sono diventati cumulati 140.000 alle ore 13, quindi abbiamo addirittura raddoppiato. E le richieste alle ore 13 di oggi effettive arrivate erano 31.000. Quindi sta arrivando comunque una massa estremamente importante di richieste. Il fatto che arrivino e noi le si sia già iniziato a lavorare mi dà l'idea che comunque il processo, per quanto ci riguarda, è un processo veloce. Ecco, io direi e darei grande tranquillità. I soldi arrivano, cioè una volta lavorate e le lavoriamo. Quindi lei mi ha detto che la mia richiesta famosa arriverà in 72 ore, giusto? A questo più o meno. Noi ci siamo dati come obiettivo quello, cioè entro le 72 ore di poter chiudere il processo. Poi ecco, io mi auguro che come noi quindi, stiamo facendo Barrese, quindi, una battuta per rispondere che devo chiudere. Quindi i 19 passaggi sono più relativi alla parte dei Confidi che alla parte dei 25.000 euro? Ma guardi, allora, anche questo dei 19 passaggi a me lascia molto perplesso, effettivamente. Non mi risulta che ci sia tutta questa mole di documentazione dei passaggi così lunghi. Sicuramente l'attività creditizia fatta sulle PMI per l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia, sulle altre formulazioni, è più complessa, ma non così complicata come è stata descritta. Questo è il mio punto di vista. In un secondo, l'unico motivo per cui non mi date 25.000 euro è se sono protestato? Allora, sicuramente quello può essere una pregiudiziale, e l'aspetto più, lasciatemi dire, negativo è sicuramente il tema dell'antiriciclaggio, per cui sicuramente non potrà essere 100%, e i casi sono sostanzialmente questi. Antiriciclaggio e protesto. Grazie a Stefano Barrese, mi sembra molto importante anche molto importanti le cifre e i tempi che ha dato, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, e quindi cioè, quella che parla appunto con le piccole e medie imprese, soprattutto GR24. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Focus Economia. Nove minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso ci sono gli aggiornamenti della Protezione Civile, ma non c'è conferenza stampa da questo punto di vista. Allora, i dati sono buoni dal punto di vista del calo che si è registrato ieri per la prima volta come aumento giornaliero dei positivi. Voi sapete che è la differenza tra i neopositivi e invece i decessi e i guariti. Ieri per la prima volta è andato in calo meno 20, oggi il dato è anche migliore perché meno 528 persone. Il dato è buono anche sui ricoveri in terapia intensiva, che sono calati di 102 rispetto a ieri, quindi hanno fatto un altro meno 4%, ieri avevano fatto un meno 2,4%. I ricoveri totali, anche qui il dato è buono, molto buono devo dire la verità, perché sono 874 in meno, meno 3,2%. Dove il dato invece non è buono è sulle morti, i decessi, che sono stati 534, ieri erano stati 450 e 430 anche domenica. Dicevo, si è tornati sopra i 500, più 2,2%, guariti più 5,5, più 2273, e i contagiati totali più 2729. Quindi buono il dato sia sul record dei guariti, appunto, e anche delle terapie intensive, meno 102. Dei ricoveri totali meno 874, meno 3,2% i ricoveri totali, meno 4% i ricoveri in terapia intensiva. Resta alto il numero dei decessi, come molti ci hanno spiegato, è anche frutto di quello che è successo nelle settimane precedenti, ma la cosa più importante è guardare adesso con massimo rispetto nei confronti dei decessi quello che è la situazione negli ospedali, quindi ricoveri totali e terapie intensive, che hanno un segno meno in ambedue i casi. Appunto, il aumento giornaliero dei positivi è meno 0,5, 528 persone meno. Ricordo sempre però che i positivi sono la differenza tra i nuovi casi e invece chi è stato dimesso, è guarito, e chi invece è deceduto. Sì, ma infatti sono d'accordo che sui neopositivi bisogna stare attenti, perché conta molto anche il dato sui decessi. Invece la cosa secondo me più oggettiva di questi dati, senza nulla togliere al resto, è quello che sta capitando nei nostri ospedali. Ecco perché continuo a ripetere il dato sui ricoveri e sulla terapia intensiva. Non sono pochi 874 ricoveri in meno rispetto al giorno prima. Allora, adesso ci occupiamo di petrolio. Volevo dare un aggiornamento di borsa e poi arriviamo invece al tema di quello che sta succedendo al petrolio. Borsa significa già parlare di petrolio, perché come immaginabile, con quello che è successo al crollo del prezzo petrolifero, ne hanno risentito anche i titoli legati al petrolio. Eni meno 5,60, Saipem meno 5,20, anche Tenaris meno 5%. Poi ST Microelectronics perde il 6,60%, Fineco il 6,50%, Ferragamo il 5,80%, Leonardo il 5,70%, Banca Mediolanum il 4,70%, Intesa San Paolo il 4,5% di calo, come Fiat Chrysler e Unicredit il 4,30%, lo perde Biper Banca. Di positivo non c'è nulla. Quelli che hanno perso meno sono Prismian meno 0,30% e Diasori meno 0,60%. Complessivamente Milano poi alla fine si è allineata col calo delle altre borse europee: meno 3,60% Milano, meno 3,80% Parigi, meno 4% Francoforte, Londra meno 3%, l'America meno 2,5%. Allora, torna l'appuntamento, ieri l'abbiamo fatto slittare con Dietro la Notizia con Alessandro Patriotti. Chiaramente ci occuperemo del crollo, di quello che è accaduto ieri. Per la prima volta nella storia i contratti futures, non è il petrolio adesso, ma il petrolio si compra a scadenza, si fanno dei contratti sul prezzo futuro in cui uno può andare o no a ritirare poi un contratto che ti impegna ad acquistare entro un termine prestabilito a un prezzo fissato, lo puoi vendere nel frattempo oppure vai alla scadenza e te lo ritiri. Ieri appunto per la prima volta è sceso di più di $50, portando con un calo a meno 37,6 dollari al barile, un calo del 30%. Però facciamo così, c'è il traffico, andiamo sulle informazioni sul traffico e poi ci colleghiamo con l'approfondimento di Dietro la Notizia. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Focus Economia. Dietro la notizia. Eh sì, come immaginabile ci occupiamo oggi con Alessandro Platerotti, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Del petrolio sotto vari aspetti. Allora, abbiamo detto in questi giorni, in queste settimane, che c'era chiaramente un calo delle quotazioni per via di una domanda a livello mondiale in calo, 30 milioni in meno di barili al giorno nel mondo, però come già alcuni hanno evidenziato, in questo caso non c'è solo un ragionamento tra domanda e offerta. Sappiamo anche degli errori compiuti nel braccio di ferro tra Arabia Saudita e Stati Uniti, con il ruolo anche della Russia nel ridurre poco la produzione. Però rispetto a altre situazioni in cui calava il prezzo del petrolio come effetto, diciamo, di un incrocio tra domanda e offerta, sappiamo che il prezzo del petrolio si basa soprattutto sui futures, cioè su quello acquisti non giorno per giorno ma a mesi di distanza, e quindi si va a ipotizzare quello che sarà il prezzo del petrolio fra alcuni mesi. Però qui non c'è solo un incrocio di domanda e offerta, c'è una componente anche fortemente finanziaria e in parte anche politica. Alessandro Platerotti, partiamo dalla componente finanziaria. Benissimo, il crollo del prezzo del petrolio è già cominciato sostanzialmente lunedì e che poi ha portato a questa macroscopica, grottesca situazione di un prezzo negativo, no? Il $37, che cosa è innescato? È innescato naturalmente delle onde d'urto violentissime contro il mercato finanziario e in particolare che cosa? Il settore dei derivati, ovvero i famosi exchange traded funds, gli ETF, e anche ETN, che è un'altra sottocategoria di questo tipo. Che cosa fanno sostanzialmente queste società? Raccolgono denaro, compongono dei basket, si chiamano dei recipienti dove mettono dentro azioni del settore petrolifero e future, dopodiché seguono l'andamento. Bene, che è successo questa mattina? I primi due crack veri, ma crack storici in questo senso. Il primo è stato quello di un fondo che si chiama USO, che è un ETF, sempre raccoglie derivati, che per evitare il crack dal crollo dei prezzi ha bloccato completamente l'accesso a 4 miliardi e mezzo di dollari che erano stati messi dentro dagli investitori. Ha trasformato la società sotto forma giuridica da ETF, la società quindi finanziaria, a direttamente a fondo chiuso, cioè non si può né entrare né uscire, è rimasto bloccato là. Questo che cosa ha provocato? Di conseguenza in poche ore un altro ETF, in questo caso si chiama Uno, che cosa ha fatto? Che è il più grande del mondo, qui stiamo parlando di una società che ha 7 miliardi di dollari di asset in gestione, è andato direttamente, ha bloccato l'ingresso e ha annunciato la liquidazione. Questi sono due eventi che hanno una portata drammatica sul mercato, perché coinvolgono un ampio numero di investitori e soprattutto si tratta di asset, di prodotti, di strumenti che vengono messi a collaterale di altre operazioni, come per esempio i prestiti. Quindi si sta innescando quel meccanismo, diciamo al contrario, ma perverso ugualmente, che si era visto sull'oro due settimane fa, quando vi ricordate che non si riusciva a fare prezzo perché, al contrario del petrolio, lì non c'erano consegne fisiche. Ma che cosa sta succedendo poi per far capire a tutti? Sostanzialmente l'eccesso di produzione di petrolio sta facendo sì che gli stessi produttori e le banche chiedano di aumentare il volume dei futures, cioè dei derivati che vengono venduti sul mercato. Questo perché? Perché altrimenti sarebbero costretti sostanzialmente a scavare dei nuovi contenitori di petrolio, delle serbatoie, mega serbatoie di petrolio, dove mettere l'invenduto. E allora che cosa fanno? Vendono contratti a termine sul petrolio in modo da scaricare la responsabilità della giacenza su altri. Ma nessuno poi a fine contratto si fa dare veramente il petrolio, vogliono i soldi indietro. E questo è il meccanismo che sta saltando. In tutto ciò, poi, come dicevi tu, giustamente, ci sono gli aspetti politici. Ecco, su questi, oggi Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno aggiungendo altri 75 milioni di barili alle proprie riserve. Questa è una mossa per appunto cercare di tenere sul prezzo, nel senso che quando gli Stati Uniti aumentano le loro riserve comprano 75 milioni di barili in più. Ma se ho ben capito, Alessandro, Trump si sta muovendo anche sulle compagnie petrolifere vere e proprie. Esatto, infatti io dico tutti di prepararsi sotto questo fronte e stare molto attenti, chi segue il petrolio, investe il petrolio su questo aspetto, perché poco dopo aver appunto dato la misura, diciamo così, protezione del petrolio, comprandole, aumentando le riserve, lui aveva annunciato già che era intenzionato a comprare fino a 100 miliardi di dollari di petrolio per le riserve americane, però questa è una goccia nell'oceano, come potete immaginare. Allora che cosa ha fatto? Ha fatto poche ore fa un tweet e preannunciando un ordine esecutivo del Presidente che praticamente permetterà alla Casa Bianca di entrare nel capitale delle società petrolifere, soprattutto quelle medio-piccole. Certamente non sto parlando né della Exxon né della Mobil, ma sto parlando di tutto quel tessuto enorme di produttori petroliferi medi e piccoli che esiste in America. Beh, ha detto che quindi andrà a salvare i produttori di quello che si chiama shale oil. Ma questo che cosa significa? Se da un punto di vista elettorale o d'immagine può sembrare un salvataggio, dall'altro ha dato il colpo finale al mercato del petrolio. Per quale motivo? In una situazione di eccesso di produzione che deprime i prezzi, salvare le società petrolifere significa aumentare l'offerta, perché di fatto quelle continueranno a cercare di vendere il loro petrolio e questo sta ulteriormente deprimendo il prezzo. È un po' un effetto palla di neve negativo per gli Stati Uniti e per il mercato mondiale del petrolio. Certamente, diciamo, non per i consumatori, è difficile dirlo, perché naturalmente non andremo mai alla pompa di benzina e ci darà il benzinaio i soldi per fare il pieno, per cui non è questa situazione qua col petrolio negativo, ma certamente ricordatevi questo, che il petrolio e l'oro sono due beni reali che servono a garanzia dei mercati finanziari. Quando si destabilizzano questi due asset reali, perché il resto, come sai, è derivati, è tutto carta, beh, allora sono guerre del mercato finanziario. E questo è l'aspetto finanziario che delle volte emerge meno, cioè oltre all'andamento, l'incrocio tra domande e offerte e quant'altro, e l'eccesso di produzione, e come dicevo l'Unione Petrolifera Italiana, i consumi di aprile faranno meno 75% per via del fatto che non ci si muove in auto, ma anche il trasporto passeggeri, pensate a quello che è la richiesta che arriva dalle compagniere, per esempio. Però un elemento, come ricordava Alessandro Paterotti, che poche volte si ricorda, è che il petrolio come l'oro sono collaterali, cioè vengono dati a garanzia di operazioni speculative di strumenti derivati, come si chiamano in gergo, e quindi se quella garanzia crolla nel valore hai un problema anche nell'intero meccanismo di carattere finanziario. Grazie anche a Alessandro Platerotti per l'aspetto appunto di carattere più leva finanziaria e speculativa, e Alessandro Platerotti tornerà con noi la settimana prossima. Grazie Sebastiano, grazie a tutti voi e buonasera. Ecco, resta però ancora un tema da chiarire: come mai i grandi produttori, al di là di quello che metteva in luce Platerotti, quindi il ruolo nella finanza derivata che ha il petrolio come garanzia, ma come mai si sia arrivati a sbattere contro un muro? Non era abbastanza immaginabile che il petrolio sarebbe crollato come consumi, sono 30 milioni di barili al giorno in meno. Non volano gli aerei praticamente, le automobili non vengono usate in molti paesi, insomma non c'è consumo. Ciò nonostante abbiamo visto comunque un braccio di ferro che è andato avanti tra Arabia Saudita e Russia, ma anche poi con il cotè statunitense. Chiedo a Sissi Bellomo, che per il Sole 24 Ore scrive sempre di commodities e quindi anche di petrolio. Buonasera Sissi. Buonasera. Quello che ha sorpreso un po' tutti, al di là poi delle implicazioni finanziarie che ricordava Platerotti, è come due potenze, insomma l'OPEC e la Russia, che vivono di petrolio e di gas, nel caso russo, siano arrivati a sbattere contro un muro quando era chiaro che avrebbero avuto un problema ancora più cogente e contingente, cioè il crollo verticale della domanda. Com'è possibile? Sì, la realtà ha superato ogni peggiore immaginazione, come ha detto qualche giorno fa l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Non c'è nessun accordo fattibile in realtà che possa compensare questo crollo della domanda. Il lockdown dovuto al coronavirus ormai tiene in casa oltre metà della popolazione mondiale, come ricordavate anche poco fa, non si vola più, non si prende più l'automobile. Pensare che la domanda di petrolio, i consumi di petrolio potessero scendere in tempo così rapido, peraltro, addirittura di un terzo rispetto al normale, era una cosa che veramente nessuno è riuscito a immaginare. E chi aveva immaginato che sarebbe stato difficile compensarla? Effettivamente erano stati i russi che quando c'era stata la rottura al vertice OPEC all'inizio marzo, e in realtà le diatribe con i sauditi e la guerra dei prezzi che è seguita era legata al fatto che i russi dicevano: ma è inutile che noi ci mettiamo a studiare tagli di produzione, che tanto non abbiamo chiara la situazione. All'epoca non era chiara davvero, ma si aveva il sentore che sarebbe stato grave, non così grave probabilmente. Adesso, quando ci si è messi per cercare di rimediare, è troppo tardi e forse è impossibile fare un taglio che compensi davvero questo crollo dei consumi. Bisogna probabilmente aspettare che usciamo di casa, che arrivi la tanto sospirata fase 2. Sì, la fase 2, diciamo, sulla così, l'unlocking, cioè il levare parte delle limitazioni che tutti noi stiamo subendo. Scusami, sì, un'ultima cosa, molti mi stanno scrivendo: ma quando avremo una ripercussione in positivo nei prezzi alla pompa? È chiaro che pochissimi stanno utilizzando la macchina in questo periodo, però gli autotrasportatori circolano per le... È un vecchio e annoso discorso, e anche doloroso discorso per i consumatori italiani ed europei in generale. Da noi ormai lo sappiamo tutti, il prezzo della benzina, del diesel è in gran parte composto da tasse, da accise, da IVA. Sì, il 70% parte, tipo, no? Esatto, anche di più in alcuni periodi, perché poi è variabile, alcune di queste tasse come l'IVA sono in percentuale, per cui, però grosso modo sì, 2/3 del prezzo sono fatti da tasse varie. E la componente legata alla materia prima varia, a volte varia così poco rispetto al prezzo totale che paghiamo, che non ce ne accorgiamo neanche, o ci facciamo poco caso, o ci accorgiamo soprattutto dei rincari e meno dei ribassi. Sicuramente, anche se un contratto sul petrolio, il WTI per maggio, è sceso sotto zero, non arriverà mai il momento in cui non solo noi, ma neanche gli americani, che invece sì hanno prezzi variabili della benzina in base al libero mercato, non arriverà mai il momento in cui ci pagheranno per fare il pieno. Il prezzo è un po' sceso, è sceso troppo poco, troppo lento, sì, forse sì, sicuramente non potrà scendere più di tanto per i motivi che abbiamo detto, per il grosso peso della fiscalità. Della fiscalità da questo punto di vista. Senti, mi dici un'ultima cosa. Sì, è vero, Trump adesso ha confermato che salverà i piccoli produttori soprattutto. Questo vuol dire che comunque la produzione resterà superiore a ogni tipo di domanda, perché tu li salvi, questi devono continuare a produrre. Trump ha twittato che intende salvarli ed aiutarli, poi bisogna vedere se il Congresso ci sta. Ricordiamoci che quando aveva detto che avrebbe comprato un sacco di petrolio da mettere nelle riserve strategiche, questo anche sarebbe stato un modo di aiutare i produttori, il Congresso americano gliel'ha bocciato il finanziamento di questa misura, perché anche negli Stati Uniti esiste comunque una corrente crescente nell'opinione pubblica in cui si pensa che non bisognerebbe salvare i petrolieri, che non bisognerebbe aiutare i petrolieri, che certamente non è accettabile un bailout per un'industria di questo tipo. E quindi bisogna vedere se lo farà davvero. C'è da dire che con questa situazione di mercato, con questo squilibrio enorme tra domanda e offerta, con questo pasticcio che sta succedendo sul mercato e prezzi negativi anche sul mercato fisico, adesso noi abbiamo visto quella spettacolare caduta del future, ma anche sul mercato fisico. Ormai il petrolio si vende per prezzi bassissimi, sono molte zone dove costa meno, costa un barile di petrolio costa pochissimo, costa meno dell'acqua. Mm-hmm. E in queste condizioni saranno le leggi dell'economia a forzare la chiusura. Certo. Di tanti giacimenti in perdita, a mandare in bancarotta tante società che non facevano flussi di cassa positivi, che non guadagnavano soldi neanche quando il petrolio costava, che quindi erano già ai margini. Mercato dei capitali si è chiuso, non si finanziano più, non riescono più a finanziarsi. Grazie anche a Sissi Bellomo, è tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.